Io sono appena rientrato in campagna, acceso in questo momento. E raga, lì va, intanto non va neanche lì va, lì fa. No, non ho altro da fare. C'è da arrestare i genitori che li hanno comprato. E le autorità competenti che hanno lasciato a libera vendita. Per carità, che schifo. Lascia perdere. No, no, adesso spengo, perché mi stanno ammazzando. Mi stanno ammazzando. Coprono anche a te fra un po', figurati. Devono essere nella zona... nella zona che sono io, non lo so. Ciao Lucia, ci sentiamo in altre occasioni. Con questi ciccalini, con questi rumori mi stanno facendo sordo. Ciao. Ciao, ciao. Ciao Mari. Ciao Mari, che ci facendo? Ma non li senti tu lui? No, qua no, ieri sì. Però ieri ero nel canale 6, questo cos'è, canale 7, giusto? Sì, sì, sono nel canale 7. Ma guarda, una cosa allucinante. Allucinante. Capito? Non sono neanche così bambinetti. Ma ti ripeto, c'è da arrestare i genitori che gliel'hanno comprato. Adesso faccio una segnalazione alla postale, perché non si può avere in dotazione delle frequenze dove non le puoi usare, nel modo più assoluto, guarda. È una cosa vergognosa, è tutta la mattina e adesso tutto il pomeriggio, ma guarda, saranno una decina, tutti in questo canale. Una cosa che non vi... non vi sento, ti sovramodulano lui. Perché a Natale puoi, eh. A Natale puoi, ma... è una cosa impressionante, no? Non si può. Cioè, a cosa gli hanno assegnate a fare queste frequenze ECB? A cosa gli hanno assegnate a fare? Meno male non c'è concessione da pagare, è un'unica concessione, ma non si può dare ai bambini una cosa del genere per Natale. Ma mi so ammazzendi, infatti adesso spengo. Mi so ammazzendi! Vabbè, là. Comunque buon Natale a tutti. Ciao ciao. Buon Natale anche a casa. Abbasso il volume, ma a volte vi sovramodulano anche, non capisco se sono nella zona mia, non lo so, vabbè. Ciao ragazzi, divertitevela. Ciao. Ciao, anch'io, ancora Rizzo. Sto facendo una cosa vicino.